la sera che siamo tutti scemi da casa. A me la vedo una colore che non mi piace. A me è proprio quella colore, quella così proprio che stai 2-3 ore senza poter parlare. Mia madre è su niente, mette lì dopo. Poi dice lui, sta dormendo, se una cosa non mi piace ma dormendo sì. Io c'ho in testa che quando voglio un po' di attenzione. Non c'è niente che non mi interessa. Ma non è vero, ci può essere quella di più e quella di meno. Ma davanti alla televisione che dice qua e dicono là tante cose, per me sono tutte cose che hanno il loro interesse. E io è difficile che mi addormento, qualche volta potrebbe essere anche successo. A lui piace la politica. Possono parlare per 50 ore Pannella, quello che risopra. Lui è sempre tutti. A me no, mi piace perché è così una maniera. Tutti la massa di farabutti. Anche no. Democratici, mica perché non ci sono. Ci sono i buoni, ma ce ne stanno tanti che sono fasoli come a quell'altro. Va bene, ma la politica è il nostro portafoglio. Ma che non importa me del portafoglio. C'è ancora dalla puttana, sì, non dica la cosa per niente. Di fatti col voto tuo se l'hai dato no. Ecco perché non c'è la partecipazione del 24. Magari. Si dovremmo, anzi, per prima. Ha visto come hanno fatto a non votare tanti? Nelle scuole, dalla prima elementare, sì. La Costituzione italiana, qual è l'ordinamento? Quali sono i poteri? Qual è il potere dello Stato? Il primo, il secondo, il terzo? Quanti poteri c'è lo Stato? Non lo sai ancora adesso. Non la studiate, non lo sa. C'è il potere legislativo, la Camera dei Deputati, il potere esecutivo, governo, e il potere, come si chiama quello della magistratura? Ricordo. Questi sono tre poteri che uno non deve interferire con l'altro. Se il magistrato ravvisa un reato al Presidente della Repubblica e chi viola di sopra di tutto, lo devono mettere in galera. C'è l'immunità parlamentare? L'immunità parlamentare è un'aggiunta che si è venuta mano a mano facendo, perché questi figli di puttana prima facevano i fatti loro come hanno saputo fare, perché i politici, un buon avvocato va a fare l'avvocato, un buon professore va a fare il professore alla scuola, il medico va a fare il suo medico, non va a fare. Ma questi falliti delle politiche, delle professioni, vanno a fare i politici. Perciò in partenza sono già fasulli. È capace, è sopravvissuto, ma che gli rende di più quello? Gli rende sì. Lasciano quelle e si buttano a quell'altro. Ma il politico deve dimenticare. Ma devi avere la coscienza, devi fare le cose giuste. Deve dimenticare quello che ha detto ieri. Ma chi fa le cose giuste? Deve imbrogliare, deve di puttanate, cucire. Venite a un provincialuccio. Venite vuole naturalmente credere alla politica. Per me ha sempre creduto quell'uomo, una persona onesta. Però non. E quando non è affibbiato dall'altro? Non c'è mordente. Lo so. La politica l'ha fatta pure col coltello, col dito. Ci vuole disonesti, sì. Ma se non fa mica così, sai, con le chiavi. Io lo trovo giusto, che se colpevole o non colpevole, uno che ha fatto parte, o dicono che abbia fatto parte delle Brigate Rosse, che sono state una delle nostre più grosse presenze nel paese, vada in Parlamento. Il pericolo, se non lo conosci, non lo puoi evitare, esatto. E quello quando va in Parlamento deve anche poter dimostrare a quelli che i brigatisti si sono usciti fuori. C'è un motivo, e questo motivo chissà se non va ricercato proprio in quell'ambiente, nel modo, ecco com'è, ecco che veniamo al discorso, che la politica è il nostro portafoglio, la nostra educazione, il nostro fine. La scuola di tuo figlio. E questa qui se via così sotto gamba, Perché c'è stato un sacco di gente che fino all'altro ieri, fino a qualche anno fa, corriva questo movimento sociale? E invece ha fatto dei passi avanti. Perché? Gli scontenti. Perché? Quelli che se ne intendono di politica, quelli che non si sono fatti imbrogliare. No, io le parolacce non ve le posso dire, le faccio di lavoro. Tu vai a andare a fanculo, tu te devi mettere a fare l'amministratore come si deve. Non che te devi far solo cazzi tu e te la tua banda. Qui rischiamo di andare a fare piazza Loreto in ogni città d'Italia. La politica è una cosa importante. Grazie, il più giovane lo devi mettere in qualche partito. Per esempio, il padre sarebbe stato non se ne vede? Non sarebbe mai. Quello si, io gli ho detto, se tu ti metti in politica, mettere nella democrazia cristiana, che gente come te li vanno cercando. Tu c'hai delle qualità eccellenti. Ma quello doveva fare la fine dell'altro migliore come a lui. Quelli migliori non possono stare. La politica è fatta di quella gente. Salvemini, non era mica uno stronzo. E lo disse tanto bene. Il 70% sono gente come noi. Infatti si dice che ogni popolo ha il governo che si merita. Invece noi siamo mediocri come cittadini. E il nostro governo è l'espressione nostra, è quella. Però c'è un 10% che sono veramente, come si dice, sono gente oneste, sono gente preparate, gente che mola la paglia, e con tutti i sentimenti. L'altro 10% è feccia, sono i massiniani. Massini ad Engels e a Marx, l'ho detto anche altre volte, che disse: voi siete stronzi, imbecilli, come noi qua. Sì, perché tu la gente state a distruggerci il senso religioso, che quello è l'unico. Ma se tu, ma se non ci fosse stato, lo avevo inventato. Tanto tu te devi lasciare sto mondo, amore, anche... Guarda la democrazia cristiana dopo 40 anni di sbagli, di fregnacce, di latricismo, di sottogoverni, di mafia, di camorra, di draghette. Ancora sta potendo. Perché ha detto: noi siamo democratici cristiani. Il che non è vero. Invece quello dove lo leva? Cristiani. Allora, cosa fanno gente così? Come a te. Il posto a quella, comunque. Come a te. Perché quelli sono cristiani, questo è male. E quelli se vengono quelli bruciano le chiese, fanno tutto. All'ultimo momento. Ma questi che fanno fare dei scivoloni che cominciano qui e vanno a finire a cosa? All'ultimo paese della Sicilia. A Mazzara del Vallo se vengono. Lui è milanese ed è quella che sta sul quadrino, sul marciapiede, che cosa vuole? Cazzo il quadrino. Questo grazie, perché è una puttana. Come quello del marciapiede, cazzo il quadrino, non puoi avere. Allora, e io sì, mai gli ho dato una puttana, io c'entro lì. Che cosa? Ma io quello che c'ho io non vale niente, quello che c'hai te vale tu. Ma va a far culo, ma che c'era cannaccia? Sono stato io con il Giovanni. Lui è milanese. I milanesi hanno sempre in testa che loro sanno tutto, sono più intelligenti di tutti, e vogliono tutto, e difendono tutti e sono buoni a tutti. Lui si è collegato con i grossi. Ah, e mo prende un sacco di quadrini. Quindi è lanciata. Da qui. Lanciata. Ma che c'è lì? sempre quelli fanno del buono, perché questi perché stanno in luglia, se vanno a raccomandare. Sono servite di cavalli. Perché hanno paura dei comunisti, non è che hanno paura dei comunisti, perché questi panidoni si hanno potere, quei semisi che comandano ne mandano per aria un sacco d'affari. Ah, sì? Allora, questo lo vengono come cuscinetti. Non ho parlato di politica. Ma vado io al politico, tu dai. L'ho detto io. Però bello. Mi piace, a me è fantastico. È meglio ma come parla di te? Ma poi, perché le cose che mi piace? Ma se le tutti di bidare. Ma è che mi piace. Di che modo, che cosa la bida se voglio. È un componente della nostra famiglia, del nostro portafoglio, dell'educazione dei nostri figli, della viabilità, dei treni, degli aerei, della... Del fatto che io non devo andare all'ufficio postale, devo stare attento che non entra qualche brigante che mi ammassa tutto. Ecco qual è la politica, tutte queste cose, vuol dire. Come sarebbe a dire? Nelle scuole, dalla prima elementare, se non dall'asilo, ci dovrebbe la politica è la viabilità. E a memoria la Costituzione. E la Costituzione la memoria. Io quante volte ho domandato a Stine Patiberi, ma la Costituzione? Che è la Costituzione? Che è la Costituzione? Guarda, è vero, perché sapendo la Costituzione tu te puoi difendere, sai? Certo. Non si possono fare non quelle cose. Ma perché? Che se la perdoni? Sì. No, casomai lo tirami fuori e lo lasciavi sul pianerottolo. No, non lo senta, c'è l'articolo. Io hai visto lì allo sportello della luce? Cioè, tutti gli articoli tranquilli, lei con il perquisito, non so perché lei... Ah, cioè, gli articoli, lo devo pure io, prendi, sta a fare, io lo leggo. Io leggo davanti. Con la catena, ecco. È previsto di questo qui, questo... E che se poi c'è una pistola, sparta sotto. Eh sì, perché... Allora tu pago il portello. Pensate tutto, allora ti metti dalla parte, leggi questo. No. La politica non è niente, non andiamo a fare Marconi sono tutti in quel punto. Appunto perché noi siamo stupidi. Ma che? Loro se ne fanno fare quei poteri. Non serve niente. Ma signor, no, non serve niente. Ma guarda, handicappato. No, l'ho fatto stamattina. La carità l'ho fatta stamattina. Due non ce ne possono fare il giorno. Arrivederci. No, ma non c'è tanto qui. Abbiamo le clienti. Ah, beh. Due. Un Boracci, giovane, del testimone di Giova. Sì, buonasera. Ti ho detto, senti, prima di tutto io non è che so niente, non so né leggere né scrivere. Però io sono già ignorato. Però so che il vostro capo stiglie ha detto che tutti quelli che si dovranno salvare nel mondo sono poco più, non arrivano a 200. Ma quello c'era una cristiano perciò questi che state strano. Che vi mettete ragione, prendete un altro perché con me non attacca perché non le capisco io queste cose così limitate. Il Dio è grande, il Dio non tiene conto di nessun colore di pelle e di razza, il Dio è per tutti, certo. Non c'è venire a raccontare queste barzellette. Se a voi giustamente siete giovani e dovete campare, io lo pago pure il caffè, però... Ma perché lei allora in questo caso... No, dico lasciate perché proprio per... Come quelli la volta mia al centro che mi voleva il sangue, no? Ci segna mai che c'è il sangue e c'è anche il sangue. Ma posso dire? Io c'avevo queste parti che ti do sangue. Ma sì, vabbè, ma lei me ne do su... Io lascio le verde e poi do un chiaccio... C'è il sangue, ma io ho presentato se non posso dare sangue, io posso. Si deve trovare così per strada. Si deve salvare contro di meno con questi briganti ladri di mascherzoni. C'è una risposta degli sangue. Domani che voi vi volete sposare, voi e tutti gli altri che si trovano nella vostra situazione. Vai a trovare un po' due camere fucine se ti riesce a trovare. Sì. Se le trovi gli devi dare il sangue.